Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qui alle 8:19 minuti. 13 ottobre, giorno fatidico, mio caro Alessandro. Ah, sì? Sì, mia moglie compie gli anni. È vero? Margherita! No, giornata per me naturalmente ai ceppi, perché nulla auguri di quello che farò basterà per... Ma fai una dichiarazione d'amore, su, dai! E quelle sono scontate ormai. Cioè. No, scontate, qui davanti a tutti. No, ma non si misurano i caratteri. Milioni di ascoltatori. Ah, no, io amo mia moglie. Ma figurate, questo è indiscusso, mia moglie si meritava di meglio. Il problema è che si meritava molti più carati di quelli che posso offrirle questo. Però detto questo, applausi, applausi dai fornitori della Real Casa. Esatto. Peter Bescapè condivide, non so. Allora, devi sapere che molti ascoltatori iniziano a chiedermi: Giannino, ma scusa, ma quanti sono i santi? Perché molti pensano che uno se li inventa. Guardate, i santi sono tanti. Se andate nel Martirologio Romano, cioè c'è una pubblicazione ufficiale, un libro liturgico che viene aggiornato. L'ultima edizione del 56, ma ogni 2, 3, 4 anni viene aggiornato e c'è quelli proprio canonizzati. E pensate che alcuni vengono espunti. Ne trovate oltre 10.000. Per i pazzi. Perché cioè, vengono espunti? Cosa hanno fatto? Perché la Chiesa dal Concilio Ecumenico Vaticano II si è sottoposta a un metodo scientifico. Ah, quindi ecco, espunge quelli per cui non ci rispetto sono ai prove, quali non ci sono, insomma, delle ragionevoli, sì, credibili, sia pure lato senso, prove. E quindi siamo a circa 10.000. Però se volete veramente sapere quanti sono nel tempo, sono più di 20.000. pensate che c'è un'enciclopedia, la Biblioteca Santorum, Città Nuova, la dietro, sono 17 volumi e trovate le 20.000 voci, però, quindi sono tante. Però insomma, oggi ricordo solo, tra i tanti santi del giorno, questo San Geraldo. Questo San Geraldo viene disputato, non si sa se è astigiano, francese o come pare amalfitano, ed è il fondatore del primo ordine militare cavalleresco monastico, cioè l'ordine del Tempio di Gerusalemme. Poi verrà anche l'ordine dei Templari, che è altra cosa, e quindi ricordiamo lui. Invece la cosa importante è che oggi festeggiano gli anni delle grandi teste dure, devi sapere. Il caso vuole che la prima fosse per me l'indimenticabile, ma è abbastanza rimpianta, Maggie Thatcher, e quindi che era nata in questo giorno, nel 1925. Poi c'è un signore per cui ho lavorato 16-18 ore al giorno per alcuni anni della mia vita, garantisco anche lui una bella testona dura, e quindi faccio gli auguri anche a lui, Giorgio Amalfa, anche se non ci sentiamo più. E poi devi sapere che oggi è compleanno di una persona che è un principe del giornalismo italiano, giudiziario, non solo, perché è oggi compleanno di Marco Travaglio, del direttore del Fatto. E allora voglio una piccola notizia per i nostri ascoltatori: vi facciamo sentire come i bimbi, ormai sono cresciuti i figli di Marco, come i bimbi da piccoli sono stati abituati a salutare il papà quando lo vedevano la mattina prima di essere portati a scuola. Lo vedevano Marco e lo salutavano così: in galera, così, così. Più o meno, così, più o meno. Così. No, è perché era per farlo felice, gli dicevano questo: caro papà, in galera, appunto. Per quello che lui, poi riversando su tutti, no, dice... sì, lui è insomma, un po' puntuale. Si scherza. Auguri Marco Travaglio. Allora, diamo il numero di telefono: 800 24 00 24. Caro Oscar, cari ascoltatori. Mano ai picconi. Mano ai picconi. Pare che il governo voglia fare questo. Mano ai picconi, sventriamo i materassi, i controsoffitti, i controsoffitti, i soffitti, le cantine, i tetti. Se sentite questa cifra, ci sarebbero, secondo stime, 150 miliardi in contanti che gli italiani tengono un po' sotto il materasso, un po' nei controsoffitti, un po' non dichiarati. Il governo pensa di fare una bella voluntary disclosure. Voluntary, cioè, sì, per no, modo di dire, l'emersione del l'emersione contante. L'emersione del contante, cioè voi dichiarate avere del nero, pagate un una tantum, capito? Cioè tu dici, tu hai messo sì, liquidi no, da parte, lo Stato, liquidi denominati in banconote di corso legale pubblico, lo Stato le considera prove di delitto in assenza di altre prove e dice: e mi date il pizzo. Vabbè, allora ma che cos'è? È la mafia! Ma allora, scusa, Corona che ha 1 milione può dire, beh, li ho guadagnati, li tenevo lì nel muro. No, sono denaro contante, liquido, di corso valido. Corona, lavoratore autonomo, come è noto, e titolare di imprese, non li ha dichiarati negli anni in cui, ecco, allora, in quel caso è diverso. Si presume che anche chi abbia 500.000 euro sotto il materasso probabilmente sono lì perché non li ha dichiarati. Si presume non va bene, bisogna avere degli elementi in base ai quali, non è che basta si verificherà che lavoro fa uno ecco, quindi non è che basta battere i muri, cioè avete il contante, datemi soldi, come sembra. No, è chiaro. Perché, cari ascoltatori, come al solito, mentre ci ripetono incessantemente, come sapete che le tasse stanno scendendo, naturalmente leggete oggi quello che scrivono tutti i giornali. Oscar. No, ma mi limito a dire, leggete tutti, cioè Corriere della Sera, per esempio, troverete che i titoli di tutti i pezzi sulla manovra finanziaria che è in arrivo tra pochi giorni, cosa sono? Che a far reggere i numeri incerti della legge finanziaria, l'ufficio parlamentare di bilancio non l'ha vidimata, sarà l'aumento delle entrate, perché naturalmente l'IVA, perché l'IVA sta aumentando gli incassi, perché lo Stato non manda più in credito i suoi fornitori, non solo li paga tardi, ma ne ha bloccato i crediti IVA attraverso un meccanismo particolare, quindi incassa più miliardi di IVA. 1, 2, voluntary disclosure, 3, la cosa di cui stiamo parlando, mano ai picconi. Come vedi, le entrate aumentano. L'idea è quella, annosa questione, di aumentare l'utilizzo della moneta elettronica. Giusta, e quindi, questa cosa, giusto. Se si abbassano ovviamente siamo le commissioni. Siamo il paese avanzato che lo utilizza, esatto, praticamente. Siamo in Europa, sappiate che 87 operazioni su 100 avvengono in contanti, la media europea è 60 su 100. Però vedi già, Oscar, un ascoltatore prima, quando l'ho letto in rassegna stampa, mi ha detto: ah, ieri c'era una persona che voleva pagare al cinema 4 euro col bancomat, ci ha tenuto fermi 4 minuti, volevamo mandarla via. Una cosa che è normalissima in tutti i paesi del mondo. È l'esempio di ciò che in realtà va cambiato dal punto di vista che va snellito, tutte le commissioni vanno azzerate. Ecco, noi abbiamo molti ostacoli a questa cosa che funzioni, come si vede. Però il problema è che se lo Stato dall'altra parte presume che se ho del contante sono automaticamente un evasore e me ne chiede una parte fissa, è finita, cioè siamo di nuovo al cortocircuito. Questo faccio notare che non funziona, insomma. Oddio, ogni paese, come si vede, poi ha i suoi metodi. Per esempio in Germania, cioè in alcune carceri ogni tanto c'è il protocollo Rotterme-Fraktion: sei molto pericoloso e presumo che tu abbia voglia di suicidarti, quindi ti troviamo impiccato il giorno dopo. Quindi non credi a questa... Non lo so, no, ci sono i precedenti tedeschi. Sì. Certo, Meinhof, Ulrike Meinhof, questo siriano che è stato trovato impiccato. Massima sicurezza, il carcere, totalmente controllato, però improvvisamente, ops, si è appeso. Comunque, insomma, non so come voi la pensiate, ma questa cosa dell'emersione dei contanti, Oscar dice, ti sembra proprio il pizzo? Cioè... No, io dico che naturalmente dovrà, forse è chiaro che se ci una pensano, deve essere fatto con criteri di incrocio con i dati tributari di anni e anni e anni, e quindi è una cosa che non produce, scusa, lì per lì, no? Oscar, se vogliono fare una voluntary disclosure dicendo fate emergere il contante che avete e pagate una tantum, è chiaro che è sottinteso se l'avete fatto in nero, in modo che lo bonificate, comunque, diciamo, così non è facile, ecco, per così dire. Un conto è hai le intercettazioni di Corona e allora dici, ecco, ti incastro con le tue stesse parole, no? Sul fatto che allora, così se è denaro, come dire, pulito, cioè che uno invece di tenerlo in banca lo tiene moltissimi italiani fanno così, tra gli anziani è diffusissima questa cosa, pensionati eccetera eccetera, c'è gente che tiene migliaia di euro, ma se sono assolutamente congrui non è che ci bisogna farli emergere e pagarci è così facile talvolta dimostrarlo, non è così facile talvolta dimostrarlo, esatto, quindi non vorrei che criminalizzassimo chi, insomma, non è uno dedito ad attività né illecite né un criminale, non ne valde. Ci sono centinaia e centinaia di migliaia di italiani, da quello che stimiamo e sappiamo, che hanno contanti molto elevati, perché non si fidano. In banca, tra l'altro, ormai ci si perde sui conti correnti, come è noto, e le banche ormai ti accollano i costi anche per le quote che devono mettere nelle banche in cui interviene il fondo di risoluzione, cioè sta diventando, i tassi di interesse sono negativi, lo sapete, quindi insomma, si capisce anche che molti italiani sbagliano, ma purtroppo non si fidano. Di noi tengano liquidi. Ecco, di qui a dire a tutti, siete degli evasori, datemi un tot del vostro liquido. Ma questo infatti non deve essere, insomma, però voglio sperare che sia per far emergere i grandi flussi di capitale illeciti. Esatto, questo vedremo. Comunque sottolineo che titolo di quella sera: la manovra salvata dalle tasse, più entrate. Poi non dite che me lo invento. Ma dove vanno a pescare? Dove vanno a pescare? Si scoprirà sabato. Il più viene dal fatto che, ripeto, i fornitori della pubblica amministrazione sono presi oramai alla catena, perché non vanno più in credito IVA, quindi lo Stato non solo non li paga, ma non gli nega anche i crediti IVA. È un meccanismo particolare che si è inventato Vincenzo Visco, ma il governo con Padoan è stato felice di adottare, e questo spiega perché l'IVA stia molto aumentando. In più, naturalmente, i giochi, le solite cose che naturalmente sono un po' di populismo, ma insomma, lo Stato aumenta le entrate. Questo è il punto. Questo è. Guarda che ci chiama Antonio da Salerno. Buongiorno, Antonio. Buongiorno Milan, buongiorno Giannino. Volevo solo chiedere quanto il bail-in possa incidere sulla volontà degli italiani di tenere i soldi a casa piuttosto che in banca. Visto che forse anche, la banca, forse anche. Sì, uno deve avere un conto sopra i 100.000 euro. Ecco, conto sopra i 100.000 euro. Noi stiamo parlando di pensionati. Io augurerei alla media dei pensionati italiani di avere più di 100.000 euro liquidi da tenere nel materasso. Stiamo parlando di gente che magari ha diverse migliaia. Non sto parlando di centinaia e centinaia di migliaia. Centinaia e centinaia di migliaia. In effetti inizia a ipotizzare attività illecite o evasione, perché gli ammontari rispetto, le ricordo che il reddito medio degli italiani è di poco superiore a 20.000 euro, la differenza è che ci sono regioni del nord dove è 34.000 e ci sono regioni del sud poco sopra gli 11-12.000. Capisci che se vanno a casa di un pensionato e trovano 5-6.000 euro in contanti, non è quello, ma se vanno a casa di uno che ha un reddito da 30.000 euro e li trovano 500.000 euro, inizia a esserci un punto interrogativo. Vai a spiegare che ha fatto dei risparmi annuale, se la moglie parsimoniosa Margherita, non ascoltarlo, anzi io aumenterei ogni lamentela di due carati. Il regalo dovrebbe, cara Margherita, aumentare di due carati a ogni lamentela pubblica, diciamoglielo pure. Siamo già arrivati a 32 carati. Non basta il Sudafrica con tutte le sue riserve minerarie. Massimo ci chiama da Napoli, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, buona giornata. Che dice? Parlavate prima di costi dei banco, ma di poste. Questo mese sono arrivati all'estremo, parliamo di quasi 100 euro al mese tra costi e roba. Sono un piccolo commerciante, già le cose non vanno granché bene in questo periodo, e vediamo dei costi sull'estratto conto che sono assurdi. Cioè, tenere il bancomat è diventato un lusso per un commerciante. Ma ecco, lei è uno dei commercianti che dice sotto una certa cifra io sale commissioni, non prendo il bancomat. Non so se uno fa una spesa minima di 5 euro, 6 euro, 10 euro. Tranquillamente lo passiamo. A lei lo passa? Non è, tranquillamente. Ma no, ci sono commercianti che dicono i 20 euro. Lasciamoglielo dire, io ringrazio Massimo, però lasciamoglielo dire. Come ha detto Massimo, loro lo passano, ma noi non possiamo scordarci degli oneri elevati a cui sono sottoposti dai gestori della piattaforma, è vero Massimo? Parliamo di 88 euro di canone fisso al mese? Sì, fondamentalmente sì, poi mettiamoci le commissioni, addirittura io sono uno che non ha mai avuto il conto in rosso e mi è arrivata una cosa come a dire... Ci stanno delle cose da pagare a 2 euro, 2,50 euro, che sembra che non fa numero, però a fine anno il numero c'è. Che cosa fa lei come piccolo commerciante? Io faccio il parrucchiere, quindi fondamentalmente li passiamo tranquillamente post. È già un periodo un po' più difficile rispetto al passato, ma le cose sono in periferia di Napoli, non è che sto aggiuntando a Napoli centro, quindi i nostri costi sono pure un po' più bassi rispetto agli altri. Però i costi sono diventati enormi. Ho pensato che a fine di questo anno togliere il posto dal negozio. Certo, e questo ovviamente però c'è il rischio altro di perdere. Andare avanti nel numero di transazioni online, come dicevi tu. E vedi che le diseconomie, la disfunzionalità della bassa concorrenza e di una sorveglianza che sia acuta nel dire, visto che gestisci la piattaforma, non puoi estrarre rendita dal numero di operazioni. Perché il nostro interesse è al contrario quello di agevolarle. Ecco, tutti questi ostacoli ci sono. Non è la voglia dell'esercente di fare più nero con meno carte. Ma no, il problema è che continua a costare troppo. troppo il pagamento elettronico. Ma infatti, se si vogliono aumentare o diminuire le spese in contanti da 87 su 100 a 60 come l'obiettivo, la media europea, però bisogna anche abbassare le commissioni, perché se no Michele dice: io il POS lo tolgo, non è che lo metto, lo tolgo alla fine dell'anno. Ci chiama Amos da Milano, buongiorno. Sì, ciao Oscar, ciao Milan. Eccoci. Allora, io ho una piccola casa editrice e faccio 60 fiere all'anno. Non è proprio così, nel senso che noi abbiamo il POS, sapete benissimo che il libro lo vendi a 5 euro. Cioè, la commissione è anche di un più, euro. Okay. Sì, però il guadagno che hai su un libro, che non è il massimo. No. Sì. Quando si fa lo sconto è uguale a pagare la commissione. Allora, io ho un POS con la banca, paghiamo 27 euro a trimestre e la commissione sul transato è l'1%. Adesso io dico, probabilmente chi ha un margine ristretto lo capisco anche, però quando vai al ristorante e ti dicono non funziona la linea, non c'è la linea, non prendiamo il POS sotto i 30 euro, cioè non si capisce se era un obbligo di legge mettere il POS o se era un facoltativo, cioè dovrebbero obbligare tutti a prendere il POS. Se vai a Milano in tribunale ti dicono vai a prendere i bolli fuori, vai fuori, ti dicono non prendiamo il POS, tu giri con cosa? Con 600 euro? Certo, no, è chiaro, metterlo per legge, certo, abbassare le commissioni, renderlo conveniente, è tutta una questione di sistema, no? No, diciamo, l'efficienza e il basso margine di commissione e di costi fissi è la premessa per estendere in maniera progressiva il pagamento elettronico. C'è un problema, oltretutto, di sfiducia connaturata in italiano. A me questo dispiace dirlo, però i sondaggi continuano a dirlo. In effetti, nelle fasce di età più avanzata e così via, il pagamento elettronico è rarissimo, perché c'è una forte diffidenza. La diffidenza non è sull'essere tracciabili, figurati un po', il pensionato, è sul fatto che non ci si trova poi a controllare la spesa e così via. Quindi abbiamo da fare dei passi avanti anche di banale cultura fondamentale finanziaria, queste cose qua che nelle scuole italiane oltretutto continua a non essere impartita. Allora, voi continuate a chiamarci all'800 24 00 24. Tra qualche minuto, dopo la pubblicità, ci concentreremo anche su qualcosa di estero, caro Oscar. Beh, io sono rimasto colpito a sentire che in Russia ci sono mobilitazioni come se fosse la guerra in arrivo nei confronti dell'Occidente. Ieri il Corriere della Sera aveva questa apertura molto... Cercheremo di spiegare con due ospiti che sta succedendo tra noi e loro, mettiamolo così, tra l'Occidente e Putin. Pausetta solo per dire una cosa: sono molto dispiaciuto nel dover dire che gli ascoltatori, che nessun grande giornale italiano che hanno montato questa storia della Gran Bretagna che discriminava gli italiani in Gran Bretagna con i questionari nelle scuole, i napoletani, i siciliani, ammette che si è trattato di una bufala. E allora io lo voglio dire, perché andando ad approfondire ieri la notizia si capisce che quel questionario non è affatto una discriminazione, era una richiesta di identificazione di diversi ceppi linguistici per la pronuncia dell'inglese, e queste diverse tipi di tipologie ci sono per tutto, per la maggior parte delle nazionalità, c'erano addirittura 7 tipi di accenti per gli arabi e così via. Quindi l'informazione italiana si è inventata un caso, il Foreign Office, direte voi, si è scusato, si è scusato perché ha capito che abbiamo preso una bufala, ma nessun giornale smentisce, e invece questa cosa vi è stata presentata in una maniera impropria. Ripeto, mi addolora vedere che anche i giornalisti fanno parte del grande concerto italiano dell'urlare per urlare. Tra poco rientriamo, state con noi. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci Oscar. Eccoci tornato. Eccoci qui. Allora, ci ha molto colpito leggere quello che sta succedendo in Russia, dove si parla di mobilitazioni, esercitazioni, clima da isteria, scorte di grano a San Pietroburgo in previsione di conflitti. Esatto, davvero sta succedendo questo? Lo vogliamo chiedere intanto a Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes. Buongiorno direttore, eccoci qua. Buongiorno a voi. Salutiamo anche Fabrizio Dragosei, che per il Corriere della Sera è corrispondente proprio da Mosca. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma davvero c'è questo clima di guerra o cosa c'è di, come dire, esagerato, o cosa c'è di vero, Fabrizio? Ma diciamo che i giornali russi e la popolazione è molto allarmata da quello che succede. In questi giorni i principali mezzi di informazione, dalla Komsomolskaya Pravda ai vari siti Lenta.ru, Ria.ru, che qui sono molto popolari e molto seguiti, hanno stigmatizzato quello che sta accadendo in questi giorni, la più grossa esercitazione nella storia della protezione civile, uno dei titoli, esercitazione senza precedenti di 4 giorni che impegna 40 milioni di persone, è il titolo di un altro sito. Beh, insomma, sono cose che normalmente non avvengono in Russia, avvenivano in parte ai tempi dell'Unione Sovietica, ma da quando c'è la Russia non si erano mai verificati su questa scala. Certo, piccole esercitazioni, manovre militari ci sono sempre state, ma adesso è che tutto assieme si concentra in realtà in un periodo abbastanza breve, e anche la questione di San Pietroburgo ha allarmato molto i cittadini della città, tanto che poi lo stesso governatore ha fatto un po' marcia indietro, ha detto ma sì, no, babbu, insomma le solite cose che sappiamo. La tensione c'è, ovviamente al centro di tutto c'è, immagino, i rapporti tra noi, l'Occidente e la Russia e la Siria. Lucio Caracciolo, il problema, tra l'altro voglio ricordare il numero proprio di ottobre di Limes, dal titolo Russia-America, la pace è impossibile, quindi sì, si parla dei due mondi occidentale-orientale per eccellenza. È la Siria il centro di scontro, Caracciolo? No, la Siria è uno dei fronti di scontro, ma è un fronte che si può relativamente contenere e controllare. Il rischio più grave potrebbe essere quello di un incidente sul fronte baltico, dove da una parte ci sono i russi nel clima che è stato appena descritto da Fabrizio D'Agrosei, e dall'altra ci sono dei paesi dell'Alleanza Atlantica, i paesi baltici, la Polonia, ma anche la Svezia, che è un paese formalmente neutrale ma certamente non filorusso, che sono convinti che la Russia possa scatenare prima o poi un attacco nei loro confronti. Ci sono costantemente delle provocazioni da parte di aerei russi che violano lo spazio aereo svedese, per esempio, mostrando i missili e tornando indietro e volando senza transponder, e dall'altra parte si stanno rafforzando i dispositivi militari dell'Alleanza Atlantica, che comunque al momento sono ancora limitati. Bisogna capire qual è la partita in gioco in tutto ciò, cioè perché tutto ciò? Innanzitutto per un clima di profonda sfiducia reciproca tra Russia e America. Qualcosa di molto diverso dalla guerra fredda, perché ai tempi della guerra fredda c'era una contrapposizione ideologica fortissima, ma russi e americani si capivano molto bene. Adesso sono due partite parallele, ciascuno è convinto che l'altro voglia fregarlo e che abbia dei piani sotterranei non visibili. Tra l'altro una parte di questa guerra che abbiamo definito ibrida è una guerra che si svolge nello spettro elettromagnetico, una guerra, come si dice, di cyber warfare, di violazioni delle regole del gioco sul web e di influenze anche, secondo gli americani, nella stessa campagna elettorale americana attraverso la manipolazione dei servizi elettorali elettronici. Quindi ci sono varie dimensioni, ma soprattutto c'è l'idea, appunto, come voi citavate il titolo, di una pace che non è proprio possibile fra questi due paesi che si sentono troppo diversi gli uni dagli altri. Io tra cose vorrei fare una domanda, perché il punto è che a me personalmente, ma questa è la mia opinione personale, è chiaro quali sono le responsabilità pesanti della presidenza americana uscente, da tutto il Medio Oriente a non aver mai capito come si tratta con Putin. E questo credo che abbia una componente fondamentale nello spiegare quello che ci ha appena detto Caracciolo, cioè l'America non è più in grado di avere un atteggiamento di fronte al quale i russi possano, anche dal punto di vista di chi vuole tornare a un imperialismo molto forte, ex sovietico, però regolarsi, e loro quindi ne approfittano. Però la domanda che faccio a Dragosei è questo: io non credo di condividere molto che lo scenario siriano sia molto facilmente confrontabile, perché lì oramai c'è la Turchia, Putin che si è ripreso il rapporto con Erdogan dopo il colpo di Stato, la Russia ha aerei, militari e stivali sul campo come non è mai avvenuto ai tempi della guerra fredda, è diventato un protagonista ormai ineliminabile del Medio Oriente, tra Iran, le monarchie arabe che sono con l'ex Al-Qaeda e così via, quindi un mosaico di problemi di cui Assad è, per così dire, il simbolo, ma la questione non è Assad, e questo spiega mezzo milione di morti, milioni e milioni di profughi e la volontà di tenerlo aperto perché è nel Mediterraneo la Russia di Putin. Allora io di fronte a questo non capisco se il problema con l'Europa sia da parte di Putin, è la mia domanda, riconoscere a Putin che si è preso questo ruolo per incapacità americana e dire agli europei: mettetevi d'accordo con me, perché dall'altra parte dell'oceano non c'è più qualcuno che ragiona? Oppure, se le provocazioni, l'altro ieri l'aeronautica finlandese ci ha mostrato le prove di una nuova violazione dello spazio aereo finlandese da parte dei caccia russi, allora dico, queste provocazioni all'Europa sono fatte per dividerci dall'America e metterci d'accordo, o perché lì Fabrizio Putin pensa che l'Europa abbia possibilità di espansioni vere come in Medio Oriente per la Russia? Sono due cose completamente diverse, ma lì cosa si capisce? Ma io ho l'impressione che diciamo, innanzitutto non c'è da nessuna delle due parti, e soprattutto non c'è da parte russa, l'intenzione di arrivare veramente a uno scontro. Il discorso però è che tutto quello che sta accadendo da un lato e dall'altro, perché poi ricordiamoci che se la Russia ha messo i missili antiaerei in Siria è stato perché la Turchia gli ha abbattuto un aereo che aveva appena sconfinato, e allora quello lì ha dato poi la giustificazione ai russi per fare quello, e così vale per tante altre cose. Ecco, io ho l'impressione che questa volontà non ci sia, c'è però, come diceva giustamente Caraccio, un pericolo molto molto forte, perché poi quando gli aerei sconfinano, quando i missili antiaerei vengono installati eccetera, è molto facile che a qualcuno scappi qualcosa di mano. Detto questo, la Russia e Putin all'inizio non avevano un atteggiamento anti-europeo o anti-americano. Ricordiamoci che il primo incontro che ci fu tra l'allora neopresidente Putin e Bush, di nuovo anche lui presidente degli Stati Uniti, a Lubianca fu l'incontro nel quale Bush disse: ho guardato quest'uomo negli occhi, ho visto la sua anima e ci si può fidare di lui. E Putin ricordò come addirittura la Russia aveva anche pensato di entrare nella NATO. Poi le cose sono andate peggiorando, in buona parte secondo me per colpa della politica americana in Europa. Ricordiamola, tutto nasce dalla questione dello scudo antimissile americano in Europa, che sarebbe dovuto servire per proteggerci da eventuali lanci di ordigni coreani o iraniani. E tutto quello ha cambiato naturalmente il rapporto di forza in Europa e ha spinto la Russia a reagire. Certo. Noi europei abbiamo un atteggiamento un po' diverso. Certo, a Putin farebbe comodo sganciarci dagli americani, sì, ma noi pure siamo abbastanza ambivalenti su questo, perché un giorno gli diciamo che le sanzioni le vogliamo togliere e il giorno dopo, appena la Russia fa qualcosa, e qui di nuovo c'è anche una colpa forte della Russia, diciamo che vogliamo rafforzare nuovamente le sanzioni. Ho l'impressione che negli Stati Uniti e in Europa non ci siano leader in grado di fare di gestire questo, come si deve o come sarebbe opportuno oggi questa situazione. Tra l'altro, no, prima si parlava di guerra tecnologica, lei giustamente, Caraccio, l'ha fatto notare che tutto ciò si intreccia anche con la campagna presidenziale americana, perché sono stati protagonisti secondo addirittura lo schieramento di Hillary Clinton, i russi sarebbero in grado con hackeraggi di avere già le famose mail che metterebbero in difficoltà Hillary Clinton per passarle al fronte di Donald Trump. Ecco, davvero tutto ciò, e quanto incide sulla campagna americana l'atteggiamento attuale della Russia, Caraccio? Allora, se questo sia vero ovviamente non lo so, e forse non lo sanno nemmeno molti di coloro che dicono di saperlo, ma non c'è dubbio che il clima che si è creato ha convinto molti americani che effettivamente i russi vogliano decidere il loro voto. Questo però ci avverte di un fatto: se, come è probabile, la signora Hillary vincerà queste elezioni, andrà alla Casa Bianca un presidente, o meglio una presidente, che ha una sua idea della Russia molto precisa, e cioè la vede come una sorta di impero del male, forse non così potente ovviamente come era l'Unione Sovietica, ma almeno altrettanto maligno. Risultato: il clima attuale, che è già abbastanza rovente, potrebbe accendersi, per esempio attraverso una decisione della signora Clinton di armare gli ucraini, di dargli quelle armi pesanti che gli ucraini reclamano, e quindi di riaprire un fronte oggi tiepido, domani forse caldo, proprio dentro i confini dell'ex Unione Sovietica, in un territorio che per i russi è considerato parte di fatto dello loro spazio, del loro mondo. Possiamo dirlo in maniera brutale, perché capiscano tutti gli ascoltatori, che a Putin converrebbe e piacerebbe vedere un Donald Trump come controparte alla Casa Bianca. Non ne sarei così sicuro, no? nel senso che Donald Trump, ammesso che abbia ancora delle chance di vincere, è assolutamente imprevedibile, mentre la signora Clinton è un nemico molto noto. Ah, ecco, e quindi molto, come dire, forse avere un nemico visibile, no, ma sai, noto devi imparare a decrittare come si legge la politica russa. Spesso si dice una cosa perché per dire l'altra, è così. Chiaro. Insomma, ai fini del problema di fondo, cioè il fatto che questi non si capiscono, la signora Clinton almeno si capisce molto bene quello che vuole. Molto bene. Allora, noi nel ringraziarvi, perché ci avete insomma chiarito, avete chiarito molto agli ascoltatori quella che è la situazione attuale, vi ringraziamo. Fabrizio Dragosei, corrispondente del Corriere della Sera, da Mosca, Lucio Caraccio, voglio ricordare, l'IMES proprio a ottobre, il numero è Russia-America, la pace impossibile, e quindi insomma si parla proprio di questi temi. È un po' come le frazioni del PD. Eccolo lì. La pace impossibile. Ma adesso sai che, allora, vogliamo chiudere, caro Oscar, ma sai che c'è una persona che si è spesa per il sì? Non te lo saresti aspettato, questo lo so. È un colpo magico. È stato un colpo gobbo, più che altro. È un sinistro all'incrocio. Al sette. Perché Renzi, tutto orgoglioso, ha fatto sentire il video di una giovane militante per i comitati per il sì, che ha raccolto Olimpia, ha raccolto un sì d'eccezione. Diego Armando Maradona. Ciao, sono qui con il grande Maradona e sono del comitato dei giovani giuristi per il sì, e gli chiedo solo una cosa. Soltanto dire sì. Basta un sì. Grazie Diego. Grazie a te. Grazie a te. Ma Maradona non vota. Lui credeva di dire sì Olimpia, sì Olimpia. Non so se ti è chiaro che qual è stato il meccanismo di questa appartenente ai Gigi, giovani giuristi. Gigi, e devo dire la verità, questo è meglio del gol di mano alla Gran Bretagna. È meglio del gol di mano. Cioè, Maradona è fantastico. Con questo apporto il sì vince. Esattamente, la mano di Dio. Sei il sì di Dio. Il pibe di oro. Batta un sì. Ma secondo te, no, secondo voi sapeva di ma che cosa stava parlando? Neanche per idea. So, però è stato bellissimo. E lei gli ha sorriso e lui si è squagliato. Dai, Oscar, tutto fa campagna referendaria, mio caro. Ci dobbiamo fermare. Imperdibile qui, sul Messaggero, Mario Aiello sull'assemblea ieri di quelli del no, dalla Lega a Sel. Non perdetevelo, chi può leggerlo, perché è una specie di circo dall'altra parte. Barnum, siete qua che dirà. Vabbè, insomma, c'erano un po' tutti, effettivamente. Dai, ci troviamo domani. A grazie. Domani.